Quello che i cittadini spesso si chiedono è non basta l'attuale legge sulla privacy a tutelarci da queste chiamate indesiderate? Mi pare di no, capire di no. No, purtroppo no, nel senso che effettivamente avevamo una normativa stringente, una normativa severa che, come le dicevo prima, impediva le telefonate. La verità è che tutti noi, non serve fare una ricerca particolarmente complessa, continuiamo e continuavamo a ricevere telefonate moleste per scopi di marketing, e che questa norma in realtà non veniva rispettata perché era difficilissimo per la vecchietta, ma anche per il sottoscritto, per chiunque, riuscire a dimostrare di aver ricevuto quella telefonata, rivolgersi all'autorità, riuscire ad ottenere giustizia, a non essere più disturbati. I nostri dati erano presenti in una miriade di elenchi diversi, ed ecco che la norma era perfetta, come si suol dire, l'operazione riusciva perfettamente, ma il paziente moriva, di fatto il sistema non teneva. Senza contare le cose a cui accennavo prima, e cioè gli elementi di mercato. Era una norma estremamente stringente che però indirettamente, involontariamente, avvantaggiava operatori dominanti. Nell'attesa, Presidente, che venga approvato questo registro di Robinson, cosa bisogna fare quando si ricevono davvero troppe telefonate promozionali? Beh, innanzitutto, e finché non verrà istituito, bisogna opporsi al trattamento. Il cittadino ha sempre il diritto di dire al call center che lo sta chiamando: non mi chiami più. E comunque, visto che fino a che non sarà istituito questo registro vige l'opt-in, quindi vige la necessità del consenso preventivo, se si riceve una telefonata si deve subito chiedere qual è l'origine dei propri dati. Cioè bisogna chiedere al call center: lei perché mi sta chiamando? Dove ha trovato il mio numero? E per quale ragione lei crede che io sia disposto a ricevere telefonate? Può essere che un anno fa noi abbiamo dato il nostro consenso e non ce ne ricordiamo. Può essere invece che questo call center stia facendo il furbo, e allora in quel caso, se non otteniamo entro 15 giorni da quando lo abbiamo richiesto telefonicamente, proprio mentre ci stanno chiamando, una buona quantità e completa e chiara quantità di informazioni e di risposte alle domande che abbiamo fatto, possiamo rivolgerci al garante e chiedere al garante che indaghi e che punisca l'operatore eventualmente scorretto.